Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Era un posto tetro, pieno di case diroccate, nella zona dietro ai capannoni. Un vicolo cieco andava a sbattere contro il muro di cinta di un giardino, dal quale scendeva una cascata di glicini. Ci andavamo pieni di una paura che dovevamo sconfiggere e di una curiosità che ci avrebbe portati anche in cima al mondo. Eravamo spaventati da quel posto cadente, da quel mondo dentro il quale eravamo entrati senza aver chiesto il permesso, spingendoci più avanti ogni giorno di più. Sono Mariella Fiorina, abito a Valderice, un posto a metà tra il mare e il Monte Erice. Vivo con un cane che si chiama Jess e due gatti bianchi. Ho lavorato per una televisione privata, ho 58 anni e un figlio che sta a Bologna. Sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24. Per oggi anche la radio col cappuccio, visto che tutti quanti i presenti, quasi tutti, l'80% dei presenti, delle presenze maschili all'interno della redazione oggi, hanno la felpa col cappuccio, come se fossero una banda che si è messa d'accordo. Fabio Cantadori, io per caso, tutti i tecnici, Pietro Lacorte, Paolino Corleoni no, c'è sempre la sua bella Paola. No, ma anche Giorgio De Luca. Uno stock evidentemente di felpa col cappuccio. Mi piace però immaginarli come una banda. Sapete le bande dei... chi sono? I writer che vanno in giro col cappuccio. Cioè, mica solo loro. Però, insomma, per capirsi. 349-238-6666. E oggi, grazie al racconto di Mariella, di questo si parla. Non di felpe col cappuccio, ma di bande. Di quando attorno ai... facciamo dai 10... no, 10 è un po' presto forse. Dai 13 ai 16, 17, 18 anni si giocava in paese o in quartiere, e il paese e il quartiere diventavano una specie di campo di battaglia. E se si voleva scendere sul campo di battaglia, bisognava far parte di una banda. 349-238-6666. Il mio amico Enrico Roccaforte di Villa Abate, paese in provincia di Palermo, in realtà paese confinante con Palermo, un giorno raccontava a me e ad altri amici per tutto il pomeriggio che lui faceva parte della banda degli Aranci in Tierra. Erano due le bande in quel caso, e non ho mai capito perché si chiamassero la sua Aranci in Tierra e l'altra Coppifumo. Tra l'altro, visto che oggi Mariella è la prima siciliana che abbiamo, magari lo chiediamo a lei di tradurci. Posso tradurlo anch'io. Aranci in Tierra vuol dire arance per terra, e Coppifumo vuol dire colpi di fumo, forse. O colpi di fulmine. 349-238-6666. Marco, da noi ogni via aveva una banda. Era inevitabile prima o poi arrivare a uno scontro. Marco, la mia era la banda del buco contro la banda di Giovanni. La banda di Giovanni, beh, questo era forte perché c'era una banda a suo nome, quindi era veramente il capo. Sfide contro sfide, distruzione di case base e infiltrazioni. Mi ricordo come vivevamo il posto, la libertà di costruire delle case sugli alberi, di vivere nei campi tra una casa e l'altra, senza alcuna paranoia. Anche voi siete qui, @radio24.it. Ecco, vi chiedo solo una cosa però. Conoscendo l'età media degli ascoltatori di Radio 24, vi chiedo solo di non cominciare a scrivere messaggi che finiscono con una volta noi ragazzi sì che sapevamo come divertirci, adesso i ragazzi sono davanti alla TV e davanti ai videogiochi. Sapete perché? Perché se dite così è perché state invecchiando. Quindi vi prego, non fatelo, perché i ragazzi di oggi si divertono probabilmente tanto quanto ci divertivamo noi, e non è che perché stanno davanti ai videogiochi si divertono di meno. E poi lo faranno, andranno a correre, sono grassi, dimagriranno, sono magri, ingrasseranno, saranno fatti loro. Ma l'adagio del una volta ci si divertiva in un altro modo, adesso no, una volta era tutto più sano, adesso no, una volta era tutto più igienico, adesso no, no. 349-238-6666. Marco, sassaiole contro quelli del mulinaccio e poi giù a scappare nei campi di fronte a casa, stando attenti che non arrivasse Perdiana, il contadino che ci sguinzagliava il cane contro. Non poteva chiamarsi Perdiana, cioè tipo Marco Perdiana o Mario Perdiana. Non è l'unico che parla di sassaiole, perché qualcuno parlava di boschi, adesso non lo trovo più. Eccolo qua, Paul. Ricordo tantissimo la guerra a suon di castagne, che alla fine non è tanto diverso, cioè se ti arriva una castagna in testa più o meno fa l'effetto di un sasso. Nel parchetto di Cava Tigozzi, frazione di Cremona, Alberto, Fabio, Massimo, mio fratello Giovanni e io. Una volta anche una tale Claudia fu colpita da Fabio all'orecchio, se la presero con me. Ancora oggi mi guardano male. E sempre un'altra volta, per prendere munizioni, che immagino siano castagne, Alberto fu colpito da un frammento di mattone lanciato contro l'ippocastano. Io mi ricordo invece una volta che in montagna un ragazzo di cui non faccio il nome, come punizione per aver perso, fu obbligato a bere l'acqua di un rivolo. che in realtà era una fogna a cielo aperto. 349-238-6666. Quando eravate una banda, di che banda facevate parte? Questa è la storia di Mariella. La domenica mattina, dopo la messa e dopo il catechismo, noi bambini giocavamo nel cortile davanti alla chiesa, sotto lo sguardo invincibile della signorina Marta, la sorella del parroco. Una donna alta e robusta, con la faccia rotonda e i capelli incatenati in una crocchia fitta. Ci infilzava coi suoi piccoli occhi senza mai un sorriso. Ci trafiggeva ogni risata come se fosse la mela del peccato. Era il suo modo di educarci, di farci del bene. Era il suo modo di metterci sulla buona strada. La signorina Marta ci preparava alla prima comunione. Penso che fosse una donna molto sola e triste. All'epoca avrà avuto circa 40 anni. A me sembrava già vecchia, probabilmente perché era così cupa. Era il suo modo di farci capire cos'era giusto e cos'era sbagliato. Invece a noi faceva solo paura e ci faceva temere tutto quello che avevamo intorno. Succede a volte. Come quando i professori a scuola ti obbligano a imparare le cose come se fosse qualcosa che non ti deve servire a vivere bene, ma come fosse solo un dovere supremo. È per quello che non ho mai imparato la storia. In quarta elementare ci accorgemmo che quel cortile di oratorio ci stava stretto, come una maglia infeltrita, rigida, scomoda, e che gli occhi della signorina Marta erano una specie di gabbia. Deve essere crescendo che ti accorgi di queste cose, ma da solo è più difficile. È più facile quando sei con qualcun altro, che ha come te magari, perché così non ti sembra di essere uno strano, uno che si deve vergognare se la pensa diversamente. E allora una domenica, Aldo, che era un bambino che abitava un paio di palazzi dopo il mio, disse che conosceva un posto strano, un posto di quelli che ci vuole coraggio. Non era chiaro cosa intendesse, ma capivamo tutti che era una roba interessante. Tutto quello che è nuovo quando sei bambino è interessante, soprattutto se quello che hai non ti piace più. E allora io con un gruppetto di compagni ci siamo decisi che dovevamo andare a esplorare un posto nuovo, uno di quelli che ci vuole coraggio. Che poi se c'era andato Aldo, potevamo andarci anche noi. Cosa aveva lui che noi non avevamo? Un pomeriggio di primavera che però sembrava cupo e autunnale perché aveva appena piovuto e faceva quel freddo che non ti aspetti e che sei vestito troppo leggero. Ecco, uno di quei pomeriggi Aldo ci portò là. Era un posto tetro, pieno di case diroccate, nella zona dietro i capannoni. Un vicolo cieco che andava a sbattere contro il muro di cinta di un giardino dal quale scendeva una cascata di glicini. Ci andavamo pieni di una paura che dovevamo sconfiggere, di una curiosità che ci avrebbe portati anche in cima al mondo. Eravamo spaventati da quel posto cadente, da quel mondo dentro il quale eravamo entrati senza aver chiesto il permesso, spingendoci più avanti ogni giorno di più. Noi eravamo in cinque e io ero l'unica bambina. Andavamo in giro per le vie del centro per scoprire la città. Quel luogo desolato era chiuso da una porta malconcia. Un giorno abbiamo provato a spingerla e siamo entrati in quel crollo. Scalavamo quei tufi ammonticchiati che ci svelavano il mistero della guerra, macerie e topi, e l'idea della morte è un glicine salvato che continuava a fiorire per un preciso ordine naturale. Non successe mai niente, ma ogni volta che ci andavamo avevamo la stessa sensazione, come se stesse per finire tutto, come se stesse per arrivare una punizione. Ci sono passata l'altro giorno, dopo 50 anni, in quell'angolo di mondo. Non so bene cosa cercassi, ero sulle tracce di una curiosità perduta probabilmente e con nuove paure da annientare, e giravo in cerca di un appoggio per puntellare i miei sogni un po' in difficoltà. Mi sono fermata all'inizio dello slargo. Le case sono state ricostruite, tutti i prospetti hanno lo stesso rosa e gli infissi di un legno biondo chiaro. Ma il glicine è sempre là, indomito. Si affaccia dal muro del giardino. Ho respirato a fondo, aspirando con forza il suo profumo. Immobile ho fissato l'incanto di quei fiori. Grappoli color malva, su una parete rosa. He climbed into the belly of the great white bear. It's very sticky and it smells a little fishy. But no one will look for him there. He took a moment to pick his thoughts and make them clear. Oh, what a day it's been. Oh, what a terrible state he's in. Oh, what a day it's been. Oh, what a terrible state he's in. Da bambino ho letto La guerra dei bottoni e I ragazzi della via Pal e altri libri del genere. Credo che in realtà li abbiano letti più o meno tutti quelli della mia generazione. E in questi giorni solo, e anche leggendo il racconto di Mariella, ho capito a cosa mi è servito leggerli. Mi è servito a scoprire che si può essere coraggiosi, che si possono affrontare le prove della vita senza paura e sperando che tutto vada a finire bene, sapendo che se non le affronti ti tormenteranno per sempre. Che è un bel modo per celebrare la letteratura. Perché è come se leggere servisse perché qualcuno ti racconti le storie, come vanno a finire quelle storie, anche se non le hai vissute. Ti dà una specie di istruzioni per l'uso per la vita, ecco. Come quando leggi il libro della giungla, ad esempio. Anzi, meglio, quando guardi il film sul libro della giungla e vedi l'orso Balù che è pacioccone, però quando deve salvare Mowgli dalla tigre non ci pensa due volte. La prende per la coda e rischia la pelle, ma non si tira indietro. Ed è bellissimo sentire le emozioni di altri come se fossero le proprie. Ed è così che si impara a comportarsi come si deve nelle situazioni difficili. Però non funziona sempre, cioè dipende. Per esempio, ad alcuni può fare l'effetto contrario. Io ricordo che c'era un mio amico che diceva che tutto quello che leggeva sui libri gli metteva un'ansia pazzesca. E ogni volta che leggeva di bande di ragazzini che si picchiavano o di gente che si perde nella giungla e se la cava combattendo contro le tigri, appunto, lui pensava che non ne sarebbe mai stato capace e quindi si sentiva un vigliacco, anche se non aveva fatto niente per dimostrarlo e anche se era solo un bambino. Insomma, la vita non gli chiedeva niente e lui si sentiva già in difetto. Forse ci vuole che qualcuno dei grandi gli spieghi questi libri ai ragazzi. A me la lettura dei ragazzi della via Pal mi ha fatto sentire un po' un eroe e mi ha fatto venire voglia di scendere in strada e menare le mani con la banda avversaria. Solo che a Romentino non c'erano bande. E non eravamo a Budapest, eravamo in pianura padana. E non c'erano nemmeno collinette da conquistare, giusto qualche risaia. Così mi sono accontentato di leggere e di guardare il film. Tutto fino al giorno in cui mi sono trovato faccia a faccia con una vera e propria prova di coraggio. Era l'ora di ginnastica, che alle medie si faceva dividendo la palestra con un'altra classe. Noi di seconda con i ragazzi di terza. E alla fine degli esercizi, chi voleva poteva fare una piccola partita di pallacanestro. Io ero piccolo all'epoca, ma mi piaceva provare un gioco dove c'erano in campo i più grandi, e allora correvo avanti e indietro con la palla. E poi la davo ai miei compagni più alti, che sgomitavano con gli avversari e andavano a canestro. Finché una mattina uno degli altri si è arrabbiato per qualcosa, non ricordo cosa, e ha buttato il pallone addosso al mio compagno preferito. E allora io lì, non so sinceramente perché, però mi sono detto che io dovevo difenderlo. E anche se ero il più piccolo, quella non era una scusa che valeva. E dovevo mettermi in mezzo e dare una mano. E l'ho fatto. E quindi il pugno che doveva finire nella pancia del mio compagno gigante è finito in faccia a me. Si sarebbero messi a posto loro probabilmente con qualche colpo e non se ne sarebbe accorto nessuno. Quello che mi ha dato un pugno invece è nato dal preside ed è stato sospeso per qualche giorno. E il mio amico che aveva fatto la figura del vigliacco non mi ha più rivolto la parola. Pensavo di fare una gran cosa e invece ho fatto una vaccata. Ed è lì che ho cominciato a capire che avere coraggio forse non significa andare a mettere la faccia davanti a un pugno, ma capire i propri limiti e sapere decidere quando è il momento giusto per far sentire la propria voce e quando invece è il momento per starsene zitto e semplicemente pensare ad altro. una puntata che secondo me ha la sua importanza. Mica peraltro, perché diciamo sempre che abbiamo un sacco di ascoltatori, o perlomeno abbiamo un sacco di storie che arrivano più o meno da Bergamo. Adesso non identificate solo la città di Bergamo, però quella zona lì, insomma, Bergamo, Cremona, Brescia, con tutte le differenze che ci sono tra Bergamo e Brescia, mi raccomando, e poi Verona, insomma, nord-nord-est, poi qualcosa a Roma, al centro, però effettivamente arrivava poco dal sud. Ecco perché sono contento di avere al telefono una siciliana pura e si sentiva anche dall'accento. Pronto, Mariella? Ciao. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie. Grazie per avercela fatta, insomma, per essere la prima ad arrivare. Potrebbe essere un po' come vinci il premio perché sei la prima, però purtroppo non abbiamo, spero di no. Non abbiamo niente da darti, Mariella. Spero che ci siano tanti altri siciliani che partecipano. Guarda, secondo me tu veramente aprirai una strada, un'autostrada del mare quasi, mi verrebbe da dire. Senti, Mariella, prima in apertura dicevi che hai lavorato per una TV privata. Sì. Che cosa facevi esattamente? Allora, facevo il direttore di rete. Ma Mariella, perdonami, va tutto bene, sì, perché ti sento un po' giù di morale. No, no, va tutto bene, grazie. Ah, ok, perfetto, a posto. Facevi il direttore di rete? Allora, ti spiego, mi hanno detto di parlare lentamente perché io mi mangio le parole. Ah, guarda chi lo dici. Sono lentissima. Figurati, lo dice anche sempre mia nonna, dice vai piano. Perfetto. Che non capisco quello che dici. Allora, quindi mi rallentiamo. Attengo alle disposizioni. Rallentiamo. Chi è che te l'ha detto, Mariella? Una mia amica. Ok, senti, direttore di rete, possiamo dire il nome della rete anche? Sì, sì, Tele Scirocco. Tele Scirocco, sì. Che sta solo a sud, sì, a sud-est. Sì, adesso non c'è più comunque. E adesso cosa fai invece, Mariella? Adesso ho finito, non lavoro più, vabbè, ho lavorato oltre 30 anni per quella rete. Ah, ma quindi sei in pensione, ad esempio? Sì. Ad esempio, sei una roba diciamo che sei in pensione. No, lo dico perché in realtà dalla foto che ci hai mandato sembra che tu abbia 45-50 anni. Ne hai, perdonami? 58. 58, guarda, però portati divinamente, Mariella, se grazie. Posso permettermi. Senti, tu stai, non ho capito bene esattamente. Io sto a Valderice. Valderice, sì, che è sotto Erice. È metà tra Trapani e Erice. Erice, io mi ricordo quando ci sono stato, c'è... Cosa c'è Erice? Non c'è un centro... Sì, c'è un centro di fisica. Centro di fisica, il esatto. Centro Ettore Majorana. Ok, perfetto, allora non mi ero completamente rintronato. E poi c'è anche, dal belvedere si vede c'è un castello, giusto? Sì, sì, sì. C'è sto dando indicazioni così un po' a muzzo su Erice, perdonami, però me lo ricordo come un posto bellissimo in realtà. È un posto bellissimo, è un centro medievale. Esatto, perfetto. Guarda, mi hai proprio tolto le parole di bocca, volevo dire proprio centro medievale. Sì. Però veniamo al racconto invece. Veniamo al racconto. Mariella, tutto questo si svolgeva quindi qualcosa tipo 50 anni fa? No, 50 più sono o meno, anche prima, perché noi abbiamo iniziato prestissimo ad aggirarci per la città. È un'esperienza irripetibile adesso, sembrerebbe ripetibile. E la città qual era? Era Trapani? Trapani, ah, ok. Era Trapani. Anche perché nessuno lascerebbe adesso i bambini così piccoli vagare per la città senza alcun controllo, però i nostri genitori provenivano da una guerra recente e ritenevano sicuramente che non potesse accaderci niente di male, perché loro avevano corso inseguiti dalle sirene che preannunciavano i bombardamenti, quindi insomma... Ma tu, scusami Mariella, tu sei una di quelle, ne parlavo prima, di quelle persone nostalgiche per cui prima no, era meglio, adesso no? Assolutamente no, anche okay. Perché un figlio di 33 anni... Che sta a Bologna, dicevi? Che sta a Bologna. Cosa fa? Quindi sta a scuola di notariato in questo momento. Cioè per diventare notaio? Sì, speriamo. Speriamo nel speriamo. Proprio adesso che li aboliscono i notai. No, non credo aboliscano i notai. Liberalizzano tutto il più. Li liberalizzano. Aspetta, chiamiamo Gianni. C'è ancora loro. Giannino in redazione. No, è andato via. Peccato. Vabbè, è una sfiga quella. Ma scusate, avete parenti in famiglia notai? Si dice no. Che questo è un luogo comune, ovviamente. Perdonamelo, però. No, non abbiamo parenti notai. Ma per diventare notaio, però, ne ha ancora, mi pare. Di, no? Vabbè, dovrà fare il concorso. Sì, sì. È una scuola abbastanza dura e lunga. Cioè, vabbè, un anno e 8 mesi mi pare dura. Scuola adesso. Ok, senti, invece il quartiere di Trapani qual era esattamente? Qual era la zona di Trapani? Io vivevo al centro storico della città e mi aggiravo con questo gruppo, noi avevamo un'infanzia, una curiosità abbastanza gialla, credo, perché eravamo sempre in missione segreta. Non ho capito, scusami. Eravamo sempre in missione segreta. No, non ho capito la storia del giallo, Mariella, scusami. Era giallo, cioè proprio giallo, tutto segreto, tutto mistero. Ah, un giallo inteso come un thriller, ok, perdonami. Sì. Ok, ho capito, perfetto. E quindi e avevamo queste strade strane che ci andavamo a cercare, una strada in particolare che chiamavamo la strada dei ladri, perché era una strada secondaria, completamente buia, anche se devo dire che a quei tempi, insomma, era pacata pure l'illuminazione. Ma sempre nel centro storico però di Trapani. Ma che tra l'altro, Mariella, perdonami, ma Trapani è una città un po' bistrattata rispetto alle altre della Sicilia, nel senso che è una bellissima città, però è una bellissima non è città. Che uno dice vado in Sicilia, vado a vedere Trapani, vado a vedere Palermo, Catania, Siracusa. Era poco collegata prima, adesso abbiamo dei collegamenti con, grazie alla Ryanair, è un aeroporto che funziona egregiamente. hai voluto proprio fare questa, scusa, questa soletta dirlo, per... ma va, figurati, ma chi se ne frega, pubblicità. ma no, guarda, però è l'unica compagnia di fatto che... Certo, che atterra a Trapani Birgi, sì, giusto? Sì, Trapani Birgi. Madonna, sì, quando sì, le infilo così sono così contento, Mariella, senti, io ti ringrazio, purtroppo ti devo salutare, però volevo dirti, non ti sei mangiata neanche una parola? Spero. E finalmente abbiamo avuto una siciliana. Grazie ancora. Senti, grazie a te, a Margherita, a Viola, a tutta la casa che realizza il programma. Va bene, grazie. Ciao Mariella. Ciao, ciao. È arrivato un messaggio che diceva: qui a Udine c'è tutta una letteratura sulle bande. E poi un'altra: in tre abbiamo conquistato la torre di Porta Sant'Angelo a Perugia nel 97, molto prima che si pensasse potesse diventare un museo. Sono tre addirittura le illustrazioni di oggi. Quindi evidentemente il racconto di Mariella ha fatto fiorire la fantasia degli illustratori che hanno curato le illustrazioni di questi giorni di Voi Siete Qui. La prima è di Maria Vittoria Romano e c'è una bambina molto carina, minuscola, che sembra un bambolotto che guarda un glicine. C'è un'altra invece in cui c'è qualcuno più terrorizzato in cima a una scala e poi del nero intorno e strani mostri. E poi bella questa, c'è una mano che tiene in mano una fotografia in bianco e nero, che è quella che era la storia 50 anni fa, di fronte però a tutte queste case nuove, moderne e tutte rosa. Isabella Giorgini, questa che vi ho appena raccontato, e l'altra invece è Luca Rossi Schmidt. 349-238-6666 oppure Voi Siete Qui, @radio24.it. Eravamo nominati il gruppo delle cassette della posta. Le facevamo saltare con i petardi e poi fuga in bici. In quegli anni ho letto il libro La banda dei chiodi, Umberto da Vicenza. Guerra fra bande con le cerebottane fatte con le canne di plastica rubate nei cantieri, caricate con le bacche rosse raccolte sulle piante. A Casal Palocco negli anni 70, Michele. Casal Palocco, che è come esattamente in Caro Diario, mi pare, lui gira per i quartieri e finisce... Ma Casal Palocco in realtà è un quartiere residenziale adesso a Roma, che è quello in cui dice Nanni Moretti, dice: Casal Palocco, passando per queste strade sento tutto un odore di pizze già pronte dentro a scatole di cartone, cani dietro i giardini, pantofole. E poi incontra il tizio con le pantofole e la pizza già pronta. Vabbè, cos'era, il 90, caro Diario? No, forse no, era il... vabbè, c'aveva 40 anni. Ciao, sono Vincenzo Borrelli. Ciao Vincenzo, io sono Matteo Caccia. La mia banda si chiamava La Banda del Torchio. E poi abbiamo addirittura un messaggio che arriva da fuori dall'Italia. Cioè, arriva da fuori dall'Italia. Una storia che arriva da fuori dall'Italia. Aldo, Caracas, Rione El Marques. Cioè, allora, in teoria Aldo ci vuole dire... Aldo, facciamo che io ci credo a questo messaggio, ok? Facciamo che io lo leggo come se ci credessi. Aldo, Caracas, quindi siamo in Venezuela, Rione El Marques, 1975. La mia banda si chiamava Yuruari. Tutto attaccato, Yuruari. Ancora oggi questa banda c'è. Che bello. Che bello, Aldo. Noi andavamo al palo, invece, scrive Paolo, una via chiusa da un muro di cinta di un giardino della nostra scuola. Ci tiravamo gavettoni d'estate e fumavamo tutto l'anno. Cioè, fumavano sempre, d'estate solo i gavettoni. E poi Stefano da Verona: l'effetto Ragazzi della Via Pal mi aveva fatto inventare una banda. Archi, bombe, un covo e tanti piccoli segreti ci facevano essere soldati, pirati, esploratori e scienziati. E allora, visto che se ne è parlato, questo è un pezzo proprio dai Ragazzi della Via Pal. Nemecek, gridò. Il biondo ragazzino smilzo e malato strinse tra le braccia il grande cieco Az e con uno sforzo sovrumano che soltanto la febbre ardente e il delirio rendevano capace di compiere, gettò a terra con tutte le regole lo stupefatto generale. Poi gli cadde addosso, svenuto. A quella vista tutto l'esercito delle camicie rosse si scompigliò. Pareva che avessero perso la testa. Caduto il capo, la loro sorte fu segnata. Quelli di Via Pala approfittarono del momento di smarrimento. Prendendosi per mano, formarono una catena e spinsero verso l'uscita l'esercito nemico, che non si era ancora riavuto dalla sorpresa. Cecco Az si levò in piedi e si guardò attorno col volto acceso per la collera e gli occhi balenanti. Si pulì della polvere e si accorse di essere rimasto solo. Il suo esercito ormai era stato cacciato vicino alla porta, tra le grida di trionfo di tutti i ragazzi di Via Pal. Lui era rimasto solo e sconfitto. Accanto a lui, a terra, giaceva Nemecek. Tutti si radunarono attorno al piccolo Nemecek, steso a terra, e alle clamorose grida di poco prima seguì un silenzio glaciale. Cheik Coats se ne stava in disparte e guardava cupamente i vincitori. Intanto nella capanna i prigionieri continuavano a rumoreggiare. Ma chi poteva badarci ora? Con cautela Jano sollevò Nemecek da terra e lo adagiò sul terrapieno della trincea. Poi presero a bagnargli le palpebre, la fronte e le guance. E poco dopo Nemecek aprì gli occhi, guardandosi intorno con un sorriso debole. Tutti tacevano. «Che cosa c'è?» chiese con un filo di voce. Erano tutti così imbarazzati che nessuno pensò a rispondergli. Lo guardavano come inebetiti. «Cosa c'è?» ripeté. Boca si avvicinò. «Stai meglio?» «Sì». «Non senti dolori?» «No». E poi chiese. «Abbiamo vinto?» «You're on in fast time, your eyes all fade. They've gone before, stood by your door all day. For what it's worth, defend your kind from shame. The lights are down, go on inside, they've paid. You're the face in stone. Through the land I own. You Fabrizio, gli eserciti avevano i nomi delle vie di appartenenza, tranne i più temuti che si chiamavano i Pipitoni e i Siciliani. Io mi ricordo c'era una banda che veniva chiamata i Marsigliesi. I Marsigliesi c'erano un po' dappertutto, secondo me, che probabilmente non erano né di Marsiglia né si chiamavano Marsigliesi, ma avevano quella roba, quel soprannome lì. Biagio, ho 44 anni, sono un imprenditore e lo confesso. Tra il 1974 e il 1977, assieme a un'altra ventina di bambini, forse di più, ho fatto parte della famigerata banda di Leo, che terrorizzò Rozzano in quegli anni. Guarda Biagio, io me la ricordo, credo ci sia una voce di Wikipedia sulla banda di Leo. Credo che ci abbiano fatto una puntata di Destini Incrociati anche, se non mi sbaglio, su Leo e la sua banda. Era un destino incrociato tra la banda e Leo. Nel mio paese, in provincia di Verona, c'erano due bande, Enrico mi scrive. La nostra si chiamava Noi, l'avversaria si chiamava Gli Altri. Questo era l'ultimo, gli ultimi 30 secondi del programma di oggi, è venerdì. Thanks God it's Friday. Io vi ringrazio e ringrazio soprattutto Paolino Corleoni, Margherita Ina, Tiziano Bonini, Miriam Lucchetti e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era quella di Mariella e parlava di coraggio. Quella di lunedì è la storia di Edoardo e parla di biciclette. Lungo la ciclabile che porta a Francolino, un giorno, svoltando a caso sulla sinistra, dopo una breve salita mi ero imbattuto nella maestosità del Po. Giunto in cima, dove la strada corre parallela al fiume, mi ero fermato. Avevo pedalato lungo l'argine, con quel fiume immenso accanto, quella divinità dormiente. E con me c'era mio nonno. Stringevo il manubrio e scaricavo i polpacci sui pedali. La potenza fluiva precisa, dal pedale alla catena, dalla catena alle ruote. C'era mio nonno, anche se non l'avevo mai visto.